sarà. Mi dai il punto di vista. Un fly equilibrio tra flazza fa libra e non ci sembra da continuare con qualcuno. Your last.